avventurieri, analizzando più da vicino la corazza che copre la creatura, questa sembra fatta di vetro. Vi viene in mente qualcosa? C'è un oggetto che potrebbe rompere questa corazza?